Allora torniamo in voce, c'è una telefonata da Messina che abbiamo in linea. Pronto? Che sta succedendo? Pronto, ciao. Pronto, scusa? Sì, ci sono, che sta succedendo? Niente, qui c'è una manifestazione che è stata indetta contro la dismissione dei treni a lunga percorrenza che interromperebbero la continuità territoriale tra la Sicilia e il continente, che ormai per la verità diciamo è ridotta al lumicino, in quanto ci stanno sei treni a fronte del fatto che ce n'erano almeno una quindicina non tantissimi anni fa, ma comunque anche questi ormai sono troppi per la scelta aziendale di Trenitalia, che ha deciso di cancellarli completamente. E quindi la popolazione diciamo è scesa in piazza, sta opponendosi, e stiamo adesso marciando alla volta dell'imbarcadero appunto di Bruglia. La questione sulla quale noi come movimento, ci stanno vari compagni e compagne del Teatro Pinelli e altre realtà, anche realtà diciamo della provincia, che si oppongono all'elettrodotto, alla costruzione dell'elettrodotto di Terna e alla conversione della raffineria di Milazzo in inceneritore, è proprio quella di sposare tutte le questioni territoriali, di fare delle grandi mobilitazioni che portino al centro la difesa proprio del territorio e la possibilità e capacità di estendere percorsi di auto-organizzazione e di autogestione. E in questo siamo abbastanza fiduciosi, c'è uno spezzone del movimento molto nutrito, e adesso insomma ora siamo in piazza, non sappiamo bene quali saranno gli sviluppi di questo corteo. Quindi comunque dimmi, scusa. C'è una partecipazione insomma della popolazione, perché questo tocca un po' a tutti ovviamente, no? Questo tocca un po' a tutti, infatti è assolutamente trasversale la partecipazione. È ancora una prima fase, c'è stata un'assemblea pubblica proprio nella stazione marittima di Messina, la gente si è proprio aggregata rispetto a questa questione, e quindi come ti dicevo la partecipazione è assolutamente trasversale, ci stanno i sindacati confederali, ci sta l'OSSA e poi ci siamo noi. Però la questione è anche, diciamo così, che appunto è un primo passo, cioè una difficoltà a riscendere in piazza rispetto anche a tutte le vicende poi anche un po' più, come dire, locali che questa città ha attraversato negli ultimi anni, forse anche la delusione legata alla giunta, adesso al governo, che in realtà in gran parte tradito, ridefinito quelli che erano diciamo le promesse in campagna elettorale che avevano infiammato questa città, e quindi diciamo così ci sta una lenta riaggregazione da parte delle realtà di base auto-organizzate, che però stanno mostrando che esistono ancora e che non hanno voglia diciamo così di delegare ad alcuno la propria resistenza, la cura e la difesa del proprio territorio. Ma la posizione ufficiale della regione o del comune su questo qual è? Questa è forse la cosa più imbarazzante. Dovete sapere che per esempio la regione incredibilmente aderisce a questo corteo. Crocetta dice che la regione Sicilia aderisce al corteo di Messina, quando nel contempo è Crocetta stesso che fornisce tutte le autorizzazioni per l'elettrodotto di Terna, è lo stesso che spinge nella conversione della raffineria di Milazzo in un inceneritore tra i più grossi d'Italia, ed è lo stesso che, come sapete, sulla questione del MUOS ha fatto una scandalosa retromarcia. Esattamente, cioè proprio questo è quello che in qualche forma diciamo così stiamo riportando all'evidenza, però senza diciamo cadere nella rassegnazione e nella delusione che purtroppo atavicamente è presente in queste terre, anzi proprio rilanciando, dicendo che noi le questioni le abbiamo comprese e che quello che abbiamo sempre detto continua ad essere vero. Non si può essere, come dire, attivi e forti in una singola battaglia emergenziale, scordando che poi il progetto sui territori del sud in generale, ovviamente non solo, basti pensare alla Valsusa, è semplicemente di, come dire, relazione con delle colonie che vengono depauperate, sfruttate fino all'osso e poi, come dire, lasciate al loro destino. Peraltro, diciamo, qui ci stanno anche questioni che sono sicuramente pratiche, ma che hanno anche del simbolico. Il fatto di dismettere una raffineria che ha fatto morti in queste decine di anni, che ha distrutto un territorio, per convertirla in un inceneritore che lascerebbe semplicemente, come dire, sarebbe l'ultima pietra tombale in tutto quel territorio, è veramente qualcosa che ha quasi del ridicolo, se ci fosse da ridere, ecco. D'accordo, io ti ringrazio per questa notizia che ci hai dato. Il telefono e la mail della radio sono a disposizione per tutti gli sviluppi. Va bene. Grazie. Io ringrazio te, un abbraccio a tutti quanti. Anche a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.